Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Si chiamano Giant, Mini Giant e WEM. Sono tre prototipi sperimentali di boe energetiche, potremmo definirle così, cioè in grado di trarre energia dal moto ondoso. Per ora solo tre esemplari di Mini Giant sono al lavoro nel canale della Giudecca a Venezia, mentre per vedere all'opera gli altri due prototipi, che invece dovranno essere installati in mare aperto, dovremo aspettare questa primavera. La tecnologia delle boe è tutta italiana e a sperimentarle sarà invece Agire, l'Agenzia Veneziana per l'Energia, diretta da Alessandra Vivona, che è in linea con noi. Buonasera Vivona. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo da Mini Giant, da questa boa che evidentemente, come dice il nome, è un po' più piccola, non è proprio un gigante, di cui ci sono già degli esemplari all'opera, come dicevamo, e sì, abbiamo... che se non sbaglio è stata proprio progettata apposta per Venezia, no? Questa tecnologia qui. Sì, è un prototipo progettato ad hoc per Venezia, proprio per utilizzare e sfruttare il moto ondoso della presentina della laguna di Venezia. È un sistema che produce, trasforma direttamente l'energia potenziale delle onde in energia elettrica utilizzando un generatore lineare. Il modello è composto da un galleggiante, che è la boa, la parte boa, visibile, sì. Diciamo. Che ha la capacità appunto di seguire il moto dell'onda, e poi un reattore fisso che viene ancorato alla banchina in questo caso, mentre nel modello in mare aperto sarà attaccato, ancorato al fondale. Al fondale, d'accordo, e, d'accordo. Questa tecnologia è molto interessante perché riesce a sfruttare sia l'energia potenziale prodotta dall'onda sulla parte alta, sulla cresta dell'onda, che la parte più bassa, e quindi si adatta bene al caso della laguna di Venezia, dove riusciamo anche a utilizzare, a sfruttare l'energia prodotta appunto dagli imbarcaderi. Proprio anche dalle onde che producono le barche quando si muovono, no? Perché sì, insomma, sono anche queste una forma di energia. Quanto è grande più o meno questa boa? Mini Giant? Ogni boa ha un diametro di 70 centimetri. Ah, ok, quindi piccoletta tutto sommato. Sì, è molto piccolo. Il sistema funziona, sono tre boe che funzionano a canno d'organo, in modo da riuscire a utilizzare anche l'onda di rimbalzo dalla sponda della banchina. D'accordo, sono tre ma potrebbero essere molti di più, no? Sì, perché sono modulari e quindi ripetibili. E che cosa ci farete con l'energia prodotta da queste tre piccole boe? Prima aspettiamo la sperimentazione in modo da vedere quanto riusciamo a produrre con questo sistema, però l'idea sarebbe quello di utilizzarlo in laguna in vari sistemi, per esempio per l'illuminazione delle briccole, che sono questi pali di segnalazione dei canali veneziani, oppure per esempio gli stessi imbarcaderi della CTV, che adesso sono illuminati con lampade fluorescenti, potrebbero per esempio sfruttare questo tipo di energia e utilizzare dei sistemi a bassa tensione come i LED, e quindi una tecnologia anche di illuminazione nuova e più efficiente. Ecco, e quindi l'energia in questo caso arriva, viene utilizzata direttamente a terra. Ecco, la prima domanda che le voglio fare invece sugli altri due prototipi, Giant e WEM, che poi insomma chiedo di descriverci, anche di spiegare in che cosa differiscono, e se anche in quel caso l'energia viene mandata a terra oppure come la prelevate, quella prodotta in mare aperto, perché Giant e WEM verranno installate in mare aperto. Sì, verranno grazie a una convenzione fatta con il CNR. E i due sistemi verranno installati nello spazio acqueo di concessione del CNR e permetteranno, in questo momento nella fase sperimentale l'energia prodotta sarà dissipata perché ci serve solo per e monitorare il funzionamento, però successivamente attraverso un cavo marino l'energia elettrica prodotta sarà portata a terra. D'accordo, e quindi Giant e WEM in che cosa differiscono tra loro e in che cosa sono diverse dal piccolo Mini Giant? Allora, prima di tutto le dimensioni. Giant ha un diametro di 2 metri, si stimano produzione di 12.000 kWh annui. Sì. Il sistema sfrutta un po' come nel piccolo, perché è lo stesso prodotto, solo che sì, di dimensioni più grandi. Sfrutta il principio di Archimede, quindi... È sempre una boa galleggiante che è ancorata in qualche modo al fondo, ed è questo cavo messo in tensione che trasmette la forza con cui poi si produce, no? L'energia elettrica. Questo vale per tutti e due? Sì, per entrambi, però l'altro WEM, il secondo prototipo, invece è di dimensioni molto più grandi, 6 metri. 6 metri, vabbè. Ha una struttura centrale dove è installato il generatore elettrico, E poi ci sono dei bracci a cui sono ancorati galleggianti, sei boi galleggianti. La produzione energetica attesa da questo secondo modello, questo più grande? Questo secondo modello produce, dovrebbe produrre circa 35.000 kWh annui. Tanto per dare un'idea, è il fabbisogno energetico elettrico di un asilo nido. Ecco, qual è la difficoltà di installazione di questi oggetti? Perché tra l'altro la produzione di energia in mare è una prospettiva molto affascinante, ma che si scontra con delle difficoltà non da poco, perché il mare è un ambiente ostile, è corrosivo, e insomma si scatenano a volte anche degli eventi atmosferici notevoli. Uno dei problemi che stiamo riscontrando è proprio l'ancoraggio, soprattutto in mare aperto, dove effettivamente anche d'inverno ci possono verificare onde di circa 7 metri e quindi il rischio di perdere il prototipo. Quindi stiamo studiando un ancoraggio ad hoc particolare, studiato appositamente per il nostro tipo di onde, ecco, per quelle che si trovano nelle nostre zone. Nelle vostre zone. E alla fine quanto più o meno pensate che costerà l'energia prodotta con questo sistema? Siete già in grado di fornire questo dato? No, non siamo ancora in grado di fornire questo tipo di dato, però quello che ci interessa a noi soprattutto sottolineare è che questo tipo di boe avrà sicuramente il vantaggio di un basso impatto ambientale, ha un'assenza completa di rumore e soprattutto sono modulari. E tra l'altro sono anche facili da rimuovere, vero? Sì, sono facili da rimuovere perché basta eliminare l'ancoraggio e quindi tutto rientra. Tra l'altro ci sono sistemi proprio di ancoraggio a terra con resine prodotte da conchiglie, quindi comunque compatibili col sistema marino. Per saperne di più su Agire? Per saperne di più su Agire potete consultare il nostro sito che è www.venezienergia.it, dove c'è anche un video sulle boe, quindi su queste tecnologie. Grazie Alessandra Vivona. Bene, grazie, arrivederci. È tutto, a lunedì.